Italia fa sapere, a maggio ancora record per il dito pubblico. Il caso dello stupratore seriale di Roma, il comandante del RIS di Parma, Radio 24, dice rendere operativa al più presto la banca dati del DNA. Maxi sequestro di beni al clan dei Casalesi per un valore di 50 milioni di euro. Rapiti in Somalia due francesi prelevati davanti all'hotel da uomini che indossavano divise governative. Il polacco Buzek è stato eletto presidente del Parlamento europeo. Infine stasera a Milano l'attesissimo concerto di Madonna. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco e dalla redazione. In primo piano le notizie che arrivano dall'Afghanistan, dove c'è stato un attacco questa mattina ai militari italiani. Un militare italiano purtroppo è stato ucciso, poco fa è stato diffuso il suo nome. Si tratta del primo caporal maggiore Alessandro Delisio di Campobasso, aveva solo 25 anni. Altri tre militari sono rimasti feriti, non sembra però che siano in pericolo di vita. Noi siamo in attesa di collegarci con l'inviato del Sole 24 Ore ad Herat, appunto in Afghanistan, per avere ulteriori particolari. Possiamo nel frattempo dirvi che naturalmente ci sono state già le reazioni politiche. La Camera ha osservato un minuto di silenzio dopo che appunto il presidente Gianfranco Fini ha confermato la morte del militare italiano. Fini ha detto che il governo riferirà in Parlamento non appena potrà dare ulteriori informazioni. Da Algeri ha parlato anche il ministro della difesa Ignazio La Russa, che ha detto il peggior timore che avevamo purtroppo si è verificato. Ora sarà necessaria un'ulteriore riflessione, ha aggiunto La Russa, sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al contingente italiano. Il ministro della difesa comunque ha confermato che la missione italiana non cambia. Siamo dunque in attesa di collegarci con Alberto Negri, ma mi dicono che non siamo ancora in grado di collegarci. Naturalmente, come potete capire, le linee telefoniche non sono proprio perfette per collegarci con l'Afghanistan, quindi andiamo a Roma, dove questa mattina c'è stata la relazione annuale dell'Authority per l'Energia, relazione fatta dal presidente Alessandro Ortis al Parlamento. Ce ne parla in diretta da Montecitorio Paola Cavadi. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dall'inizio dell'anno ad oggi il prezzo dell'energia elettrica è sceso dell'8%. Quello del gas del 15,4%. Lo ha detto il presidente dell'Autorità per l'Energia e il Gas qui a Montecitorio, che ha allo stesso tempo però lanciato l'allarme sulle quotazioni del petrolio e dei suoi derivati. Troppe speculazioni influenzano i prezzi del barile, ha detto il presidente Ortis, ma sentiamo a questo proposito un passaggio della sua relazione. Resta tuttavia l'esigenza di guardare con molta attenzione e la giusta preoccupazione a quotazioni del barile e dei suoi derivati, che sembrano confermare il ruolo abnorme di una certa speculazione. Una speculazione che, passando da barili veri a barili di carta e allargandosi ancora ad altre commodities e settori, rende evidente la necessità di governance e regole internazionali che mortifichino la stessa speculazione. Funziona la liberalizzazione del settore elettrico, in soli 2 anni, ha detto Ortis, oltre 3 milioni di consumatori hanno deciso di cambiare venditore, oltre 1 milione di famiglie hanno poi chiesto il bonus elettrico per la riduzione dei prezzi in bolletta. Un ultimo dato infine, nel 2008 il 60% delle famiglie ha avuto bassi consumi di energia e ha pagato meno della media europea, discorso diverso per le imprese che al contrario pagano bollette più salate anche del 25%. E da Montecitorio è tutto, a voi la linea. Grazie Paola Cavadi, siamo ora in grado di collegarci con Herat, Afghanistan, dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Ecco, dicevamo naturalmente in apertura del GR Extra Large del militare italiano che è stato ucciso in questo attacco. Che cosa se ne sa Alberto? Ma dunque, l'episodio è avvenuto questa mattina. Io mi trovo al comando di Herat e verso mezzogiorno è stato dato col megafono un allarme di emergenza che in codice si chiama Medevac. Quando si sente questo cosiddetto allarme Medevac, ecco che tutti si fermano, si trattengono il respiro perché capiscono che è successo qualcosa da qualche parte. L'incertezza è durata circa un'ora e poi abbiamo avuto la notizia che appunto una pattuglia di paratutisti della Folgore di bersaglieri lungo la strada che va da Farà sulla Ring Road, a 50 km appunto dal capoluogo Farà, è stata attaccata da un ordigno esplosivo. In poche parole, una mina o una bomba che è fatta esplodere a distanza, ancora non si sa. È morto il caporale della Folga, il caporale maggiore della Folga, Alessandro Di Lisio, 25 anni, altri tre paracadutisti sono feriti, fortunatamente però non sono in pericolo di vita. Il generale Castellano io l'ho incontrato qui mentre stava salendo su un elicottero per andare proprio a Farà a verificare prima di tutto le condizioni dei feriti e poi a chiarire come è avvenuto questo episodio. Certamente purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione di guerriglia pericolosa con attentati, come dice lo stesso generale Vigliacchi. Ecco, lo diciamo spesso anche in questo periodo che la situazione in Afghanistan è veramente sempre più incandescente. Perché secondo te colpire gli italiani? Ma qui non si tratta di colpire gli italiani, ragazzi, qui sono morti 10 soldati britannici, più di 10 soldati britannici in una settimana. Qui è il problema che la coalizione internazionale, che peraltro ha due comandi, uno l'Enduring Freedom degli americani e l'altro l'ISAF della NATO, si sono decisi con molti anni di ritardo probabilmente di cercare di contrastare la guerriglia talebana che è ritornata in forza a partire dal 2006. E questo contrasto, soprattutto nelle zone di Pashtun, l'etnia maggioritaria dell'Afghanistan, quella che era più legata al movimento integralista islamico, reagisce come abbiamo visto con i mezzi che sappiamo e soprattutto con questi ordigni esplosivi che vengono fatti appunto esplodere quando passano le pattuglie. La maggior parte dei militari della coalizione internazionale muoiono in questo modo, non muoiono in scontri di battaglia aperta, sono attentati di guerriglia, attentati terroristici, sono i classici metodi che stanno adottando questo movimento talebano che peraltro in realtà ormai è una realtà molto multiforme, magari anche frammentata, ma che rimane estremamente pericolosa. Alberto, prima abbiamo riportato le parole del ministro della difesa, la Russa, che da Algeri ha detto la missione italiana non cambia, però ci vuole una riflessione sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al contingente italiano. C'è dunque un problema di sicurezza legato al nostro contingente in Afghanistan? Allora, dunque, innanzitutto qui c'è un problema generale che dicevo prima che è legato alla NATO. La NATO ha migliaia di militari sul terreno, però con regole di ingaggio diverse a seconda dei vari contingenti nazionali. Quindi c'è chi può fare delle cose, per esempio non possono sparare in realtà nemmeno un colpo, e c'è chi ne può fare altre. Gli italiani hanno il comando regionale di una zona molto vasta, che è quella della regione di Herat, è circa quasi metà come il nord Italia, tra l'altro una regione anche con formazione molto diversa, nord montagna, sud deserti, tra l'altro confinante con quella provincia dell'Helmand, dove stanno avvenendo gli scontri più duri in questo momento. Quindi si tratta di una missione di stabilizzazione, ma che è diventata anche è una missione di combattimento. Per questo che serve una riflessione. Serve una riflessione per capire innanzitutto che cosa possiamo e che cosa vogliamo fare qui. Quanto ai mezzi, ce ne sono in qualche misura a sufficienza. Il contingente è stato rafforzato adesso di 500 uomini, ci sono circa 3.200 militari italiani, forse 3.300 a regime completo, anche in vista delle elezioni presidenziali del 20 agosto. Certamente se la missione, come si vede, come si fa sempre più dura e sempre più impegnativa, bisogna riflettere e capire che si tratta anche di una missione di combattimento, non di una missione soltanto di mantenimento della pace o cose di questo genere. Bisogna insomma togliere il velo dell'ipocrisia. Grazie Alberto Negri in collegamento con noi da Herat, che ci ha appunto dato i dettagli di questa notizia che ha aperto il nostro giornale. Lo ripetiamo, un militare italiano è stato ucciso in un agguato in Afghanistan. Si tratta del primo caporal maggiore Alessandro Di Lisio della Folgore. Parliamo ora del DPEF, il documento di programmazione economico-finanziaria che sarà illustrato oggi alle parti sociali. Due gli incontri previsti a Palazzo Chigi. Alle 16 si siederanno al tavolo imprese e sindacati. Alle 18 sarà la volta di regioni ed enti locali. Ce ne parla nei dettagli in diretta da Roma Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Sgravi per i lavoratori dipendenti e i pensionati, più risorse per l'occupazione e gli ammortizzatori sociali, ma anche una prospettiva di più largo raggio e quindi una strategia di politica economica per i prossimi anni e poi misure per rilanciare il paese ed uscire dalla crisi. Di tutto questo si parlerà nell'incontro delle 16 a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali. L'esecutivo illustrerà di fatto il documento di programmazione economica e finanziaria che tradizionalmente indica gli obiettivi macroeconomici di medio periodo dell'esecutivo. Il testo, lo ricordiamo, sarà poi domani domani al Consiglio dei Ministri. Il tavolo di confronto sarà anche l'occasione per un faccia a faccia su alcune questioni calde, a partire dall'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne del pubblico impiego, tema sul quale è stato presentato ieri dalla maggioranza un emendamento che prevede un incremento graduale di un anno ogni due anni a partire dal 2010 per arrivare alla soglia dei 65 anni nel 2018. Non si potrà non parlare dello scudo fiscale e della moratoria per le aziende sulle scadenze sul credito. A Palazzo Chigi, come detto, dopo le 18 ci saranno anche gli enti locali. Potrebbe essere questa l'occasione per affrontare il tema del patto di stabilità interno, che per i comuni virtuosi dovrebbe essere allentato svincolando alcune spese per investimenti. Vincenzo, un po' brevemente, diciamo anche nei titoli che stamattina Banca Italia ha diffuso dei dati sul debito pubblico. Come sono questi dati? Sì, di fatto il bollettino della Banca d'Italia certifica il raggiungimento di un nuovo record per il debito pubblico, che a maggio raggiunge la quota di 1.752,2 miliardi di euro. L'incremento dall'inizio dell'anno è stato del 5,4% con quasi 90 miliardi. Ma il bollettino statistico della Banca d'Italia segnala anche un altro dato importante: il calo delle entrate fiscali nei primi 5 mesi dell'anno, quindi gennaio-maggio, mancano all'appello ben 4,5 miliardi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Emiglietta, noi restiamo a Roma ma per tutt'altra vicenda, ossia il caso del presunto stupratore seriale Luca Bianchini, che per decisione del giudice resta in carcere. Luca Bianchini aveva già pianificato altre 5 aggressioni, a dichiararlo il capo della squadra mobile di Roma, Vittorio Rizzi, secondo cui la scelta delle vittime da parte del presunto stupratore seriale era tutt'altro che casuale. Il 32enne romano selezionava con cura le donne da aggredire, effettuando dei sopralluoghi nei garage condominiali in cui poi le avrebbe aspettate. Ipotesi che la squadra mobile ha potuto formulare sulla base delle cartine ritrovate nell'abitazione di Bianchini. Nell'appartamento di Cinecittà sono stati rinvenuti anche DVD porno, legacci, una pistola giocattolo, dei coltelli e delle pozioni magiche. Intanto ieri, a seguito dell'interrogatorio di garanzia, il GIP Roberto Amorosi ha confermato la custodia cautelare in carcere. Un interrogatorio nel corso del quale Bianchini ha ribadito ancora una volta la sua innocenza, negando tutti gli addebiti e chiedendo la ripetizione dell'esame del DNA. Savino Gallo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Allora, l'abbiamo appena sentito, la difesa di Bianchini chiede di rifare il test del DNA, ma quanto è ritenuto attendibile questo test? Esistono effettivamente dei margini di errore? Raffaella Calandra ne ha parlato con il comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano. Non c'è possibilità di errore, perché nel momento in cui noi disponiamo di una minima quantità di materiale, la risposta del DNA è sicura e non pone problemi di errori. Oggi è quanto di più sicuro ci sia, non c'è tema di confusione con un altro soggetto, e quando un profilo contiene 16-17 piccoli tratti di DNA, quel profilo è assolutamente completo. E questo è indipendente dalla quantità di materiale che si abbia a disposizione per un esame? A livello seminale la quantità di DNA è anche maggiore, perché gli spermatozoi hanno solo nucleo. A noi è capitato, per esempio, per donato bilancia, quando noi abbiamo poi individuato il serial killer, noi trovavamo sempre sulle vittime lo stesso profilo di DNA, che era un profilo incognito. In questi casi è determinante la banca dati. Non immagina nessuno quanti casi riusciremo a risolvere nel futuro con la banca del DNA, perché come abbiamo visto la violenza sessuale, ma come i furti, come le rapine, sono tipici esempi seriali, per cui noi troveremo soluzione a tanti casi che oggi non hanno mai avuto un colpevole attraverso la banca dati. Certo, adesso c'è la legge, bisogna organizzarla. Tutti gli indagati avranno un profilo che rimarrà nella banca dati e un campione personale. Soltanto quando un qualsiasi cittadino della Repubblica dovesse essere riconosciuto innocente, ed è giusto che quel profilo e quel campione saranno eliminati. Noi cambiamo decisamente argomento ora, riflettori accesi questa sera allo stadio Meazza di Milano per Madonna, replica del concerto il 16 luglio allo stadio Friuli di Udine. Dopo il record delle 77.000 persone arrivate a San Siro martedì scorso per sentire gli U2, saranno oltre 55.000 questa sera i fan pronti ad assistere al concerto della regina del pop. Con il suo Sticky and Sweet Tour, visto già da oltre 2 milioni di persone, destinato ad essere ricordato come il più redditizio per un'artista donna nella storia della musica, Madonna ritorna in Italia meno di un anno dall'ultima esibizione a Roma, il 6 settembre scorso, con uno show a 360 gradi, tra coreografie ed effetti speciali, a partire dall'ingresso sul palco a bordo di una Rolls Royce. Royce. Lo spettacolo ripercorrerà i grandi successi della cinquantenne pop star, da Material Girl all'Isla Bonita, da Like a Prayer fino al più recente Give It to Me. E di sicuro non mancherà l'omaggio all'amico e coetaneo Michael Jackson, scomparso il 25 giugno scorso a Los Angeles. Un ballerino riproporrà il moonwalk, lo storico passo di danza di Jaco. Partito il 4 luglio da Londra, il tour di Madonna, arrivata ieri a Milano con tutti e quattro i figli al seguito, farà tappa anche a Udine il 16 luglio, per ripartire poi alla volta di Francia, Spagna e di gran parte dei paesi europei. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. È stato ucciso un militare italiano in Afghanistan. Si tratta del primo caporal maggiore Alessandro Di Lisio, aveva 25 anni. Nell'agguato sono rimasti feriti altri tre connazionali, non sono in pericolo di vita. Il ministro della difesa, La Russa, ha detto: la missione non cambia, ma è necessaria una riflessione sui mezzi in dotazione al contingente italiano. La relazione dell'Authority per l'energia oggi al Parlamento. Il presidente dell'Authority, Alessandro Ortis, ha detto che dall'inizio dell'anno il prezzo dell'energia è sceso dell'8%, ma c'è un'enorme speculazione sul petrolio. Il governo presenterà nel pomeriggio il documento di programmazione economico-finanziario, ossia il DPEF, alle parti sociali. E intanto Banca Italia ha fatto sapere: a maggio ancora record per il debito pubblico. Oggi c'è stato un maxi sequestro di beni al clan dei Casalesi. Siamo dunque in Campania, per un valore di 50 milioni di euro. Sono stati rapiti oggi in Somalia due francesi. Sarebbero stati prelevati davanti all'hotel dove alloggiavano da alcuni uomini che indossavano divise governative. Parliamo del presidente del nuovo Parlamento europeo che è stato eletto questa mattina. È andato tutto secondo le previsioni? Lo chiediamo a Sergio Nava, che è il nostro inviato a Strasburgo. Sergio. Buongiorno da Strasburgo, dove circa poco più di un'ora fa il polacco Jerzy Buzek è stato eletto a stragrande maggioranza, con 555 voti, il nuovo presidente del Parlamento europeo. Buzek è un popolare, ha 69 anni, è nato a Svilovic il 3 luglio del 1940 ed è tra i componenti storici anche del sindacato Solidarność. Da premier polacco ha condotto i negoziati per l'ingresso della Polonia nella NATO prima e nell'Unione Europea poi. Buzek ha avuto il sostegno praticamente di tutto lo spettro europarlamentare, praticamente solo la sinistra europarlamentare non l'ha votato, per il resto il consenso è stato ampio, e governerà, o meglio presiderà l'Assemblea di Strasburgo per 2 anni e mezzo, quando poi la presidenza passerà a un socialista, probabilmente sarà Martin Schulz. Quindi già si sapeva da giorni che l'italiano Mario Mauro si sarebbe ritirato, a nulla è valso il sostegno esplicito del premier Silvio Berlusconi. Mauro dovrebbe andare a presiedere la commissione affari esteri, mentre pomeriggio altri due italiani dovrebbero venire eletti vicepresidenti dell'Assemblea di Strasburgo. Si tratta di Gianni Pittella, del gruppo ASD, che riunisce i socialisti e i democratici, e di Roberta Angelilli, che invece sarebbe eletta in rappresentanza del gruppo popolare. Grazie Sergio Nava, collegato con noi da Strasburgo. Prima di passare dalla politica europea a quella di casa nostra, c'è un'ultima ora che viene battuta dalle agenzie, riguarda il presunto stupratore di Roma, Luca Bianchini. Altre due donne vittime di stupri riconducibili al mostro seriale, appunto, della capitale, hanno riconosciuto in foto Luca Bianchini come l'autore delle violenze. La notizia viene appresa da fonti investigative. Le due donne si aggiungono così alle tre vittime degli abusi compiuti fra aprile e luglio, appunto, a Roma. Per queste tre violenze Bianchini invece è stato incastrato, almeno secondo quanto riferisce l'accusa, dal test del DNA. Veniamo ora alla politica di casa nostra. Come dicevamo, negli ultimi giorni il dibattito, soprattutto a sinistra, è concentrato sull'intenzione di Beppe Grillo di candidarsi alle primarie del partito che ci saranno ad ottobre. Su questo c'è proprio un vero braccio di ferro. Il PD dice: non può farlo. Grillo replica: mi sono anche iscritto al partito. E poi ancora: i vertici del PD, lo ha fatto ad Arzachena in Sardegna, dove però non risiede. Insomma, un battibecco procedurale, definiamolo così, che nasconde in realtà un problema politico. Ma come sta vivendo questa situazione la base del Partito Democratico? Sentiamo. Cosa si pensa della candidatura di Grillo nei circoli locali del PD? Che opinione hanno quelli che giorno per giorno vivono il partito nelle piccole sezioni di tutta Italia? Sono sorpresi e perplessi in gran parte, anche se magari non condividono in toto la linea della chiusura al comico dettata dai Franceschini, dai Bersani e dai Fassino, come spiega Giorgio Blundo del circolo PD Parioli Flaminio di Roma. Dire di no solamente agli imbroglioni, ai ladri, a quelli che con la legalità hanno poco a che fare, il fenomeno berlusconismo, lì c'è una chiusura netta, totale, assoluta. Questo sì. Pochi, però, sono convinti che Grillo sarebbe un buon capo per il principale partito d'opposizione. Elisabetta Martignoni, dal circolo di Zola Predosa, provincia di Bologna. Non deve stare forse neanche la dirigenza del PD decidere chi può, chi non può. Però, sinceramente, Beppe Grillo, se partecipa alle primarie, meriterebbe di avere un numero di voti raggiunto lo zero. L'antipolitica non paga, non ha mai pagato e non pagherà. No all'antipolitica che non funziona dunque, ma almeno a sentire la stessa esponente emiliana, qualche timore di successo del comico serpeggia, almeno nella base. Perché il problema non è Beppe Grillo che si candida, il problema è se riceve comunque un consenso. Questo sarebbe il grave. E non manca chi alla sua trovata pungente risponde con una controprovocazione. Simone Naldoni, segretario metropolitano del PD fiorentino. Se Beppe Grillo vuol dare il suo contributo al partito, lo può fare, si iscrive al suo circolo di residenza, partecipa al dibattito congressuale interno al circolo. C'è tanti modi per essere utile al PD. Non è detto che ci sia solo quello di fare il segretario nazionale, si può fare il coordinatore di circolo, si può tentare di dare il contributo anche dal basso, abbiamo tanto bisogno di idee e di innovazione, Grillo può essere utile, magari con un po' più di umiltà. Comunque vada a finire il dibattito, ormai è avviato, i militanti democratici di certo non arriveranno impreparati al congresso. Fabio Pisano, GR24, Il Sole 24 Ore. Beh, oltre al caso di Beppe Grillo c'è anche un'altra proposta politica che sta facendo discutere. Nel Sud Italia il centrodestra, ma non solo, sta lavorando alla nascita di un nuovo partito. Allora sentiamo di che cosa si tratta. Potrebbe chiamarsi Sud, le ali del Sud, Forza Sud. Se il nome non è ancora stato deciso, l'obiettivo è chiaro: presentarsi come forza politica radicata alle prossime elezioni regionali del 2010. L'esempio è la Lega, la sua funzionalità sul territorio. L'idea nasce da una contestazione della politica del PDL nel Mezzogiorno. Sud penalizzato, impegni non rispettati, ministri disattenti alle esigenze dei cittadini. Il Partito del Sud non è più solo una chiacchierata da transatlantico. È un progetto politico che sorge da una costola del centrodestra, che raccoglie il sostegno di alcuni esponenti dell'opposizione, che ogni giorno annovera sostenitori, avversari, programmi e alleanze. Il portabandiera è il leader dell'MPA e governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, appoggiato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianfranco Miccichè, ed Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia. L'intenzione non è certo quella di creare una frattura all'interno del PDL, sostiene Lombardo, ma le simpatie al progetto espresse dal governatore della Calabria Loiero e da quello della Campania Bassolino, entrambi del PD, hanno sicuramente incrinato i rapporti con il Popolo della Libertà, che accusa i promotori del progetto di destabilizzare un partito che ha sempre risposto alle esigenze del Sud e ha sempre ottenuto, proprio nel Meridione, un vasto consenso. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Comincia oggi la lunga marcia della memoria, 10 giorni in cui strade, piazze e molte città italiane prenderanno i nomi delle vittime della mafia. Libero Grassi sarà questo da domani il nome di adozione di via Solferino a Milano. Un cambiamento temporaneo e simbolico che sarà visibile a tutti. A coprire il nome originale della via ci sarà una targa. Libero Grassi, ucciso dalla mafia. E sotto di essa una nota biografica per chi non ricollegasse il nome alla figura dell'imprenditore catanese morto nel 1991 per mano della mafia, dopo aver condotto una battaglia solitaria contro il pizzo. L'iniziativa si ripeterà da oggi e fino al 25 luglio in molte città, da nord a sud. Ogni cittadino può adottare una via, basta comunicarlo all'associazione Da Sud che ha promosso l'evento, scaricare dal sito il materiale necessario, la targa e la scheda del personaggio e documentare la propria azione scattando una foto. Il portavoce di Da Sud, Danilo Chirico. Noi tendiamo a raccontare le storie più dimenticate, quelle che non racconta mai nessuno, quindi sono le storie più variegate, le storie delle vittime delle mafie, sono storie di racket, di ribellione, sono storie di sequestri, sono storie di tragici errori. Purtroppo i motivi per uccidere alla criminalità organizzata non mancano certamente. Sul sito di Da Sud una galleria fotografica in continuo aggiornamento mostrerà la mappa dell'Italia vista con gli occhi di chi non vuole dimenticare. Irene Privitera, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di criminalità organizzata, oggi c'è stato un maxi sequestro di beni al clan dei Casalesi. Per la magistratura campana si tratta dell'ennesimo scacco matto al clan dei Casalesi. È stata denominata Operazione 50 perché il valore dei beni sequestrati è di oltre 50 milioni di euro ed è la 50esima operazione di tipo finanziario condotta contro il clan dei Casalesi. Tra i beni posti sotto sequestro, oltre a immobili e società, molte delle quali intestate a prestanome anche autocisterne, camion e automezzi, posti sotto sequestro anche polizze assicurative e numerosi conti correnti. In uno di questi, intestato a un prestanome di Setola, sono stati trovati e sequestrati 60.000 euro. L'operazione, condotta dalla DIA di Napoli, colpisce il clan dei Casalesi e i loro alleati dalla fazione bidognettiana Giuseppe Setola, già detenuto, e ai Belforte di Marcianise, in provincia di Caserta. Ma non finisce qui. Parola di Maurizio Vallone, capocentro della DIA Campania-Molise. Certamente rimane ancora una parte occulta che è ancora sicuramente importante, ma non è più quella che era una volta. Una volta questo clan aveva veramente il controllo dell'economia del casertano, oggi le forze dell'ordine e la magistratura sono riuscite a reimporre il predominio dello Stato su queste terre e adesso stanno contrastando in maniera sempre più efficace questo clan camorristico. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Prima vi abbiamo parlato del concerto di Madonna che ci sarà questa sera a Milano, ora parliamo ancora di musica, di quella che è considerata la band del momento, i Gossip. Il 15 luglio in concerto il gruppo del momento, Gossip. La band americana sarà allo Spazio 211 Open Air Festival di Torino per l'unica data italiana. Un tour mondiale per presentare l'ultimo album Music for Men, il nuovo lavoro della band prodotto da Rick Rubin dopo il successo di Standing in the Way of Control. Indie rock, garage, punk soul. La musica delle Gossip è stata definita in molti modi, di fatto un colpo allo stomaco, un inno all'indipendenza. Ogni singola canzone è una dose calibrata di trasgressività, che parla a ogni genere di pubblico senza differenze. Ai microfoni di Radio 24, Beth Ditto parla di underground, femminismo, Europa, America. La cosa migliore che è accaduta nell'ambiente musicale per la nostra musica è stato il successo dei Nirvana. Il video The Year Punk Broke fu una vera rivelazione, che ha introdotto molti nuovi spunti anche all'interno della stessa scena underground. Penso che siamo molto fortunati, perché anche durante questa intervista si parla di persone, femminismo e delle band che ci hanno influenzato e che ci permettono di essere pazzi così come siamo. Non credo che si possa parlare di vera e propria etica americana. In Europa si è attenti ad apprezzare l'arte, preservarla, nella considerazione che tutto questo debba andare di pari passo con la cultura. Penso che questa sia la differenza oggi fra Europa e America. Tutte le info su gossipyouth.com. Info su concerto e altri live su spazio211.com. Mauro Garofalo, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Questa mattina un militare italiano è stato ucciso in Afghanistan. Si tratta del primo caporal maggiore Alessandro Dilisio. Nell'agguato ferito altri tre connazionali non sono in pericolo di vita. E il ministro della difesa, la Russa, ha detto la missione non cambia, ma è necessaria una riflessione sui mezzi in dotazione al contingente italiano. Il caso dello stupratore seriale di Roma, altre due donne hanno riconosciuto in foto Luca Bianchini come l'uomo che le ha violentate. E poi la relazione dell'Authority per l'energia, dall'inizio dell'anno il prezzo è sceso dell'8%, ma c'è un'enorme speculazione sul petrolio. Nel pomeriggio il governo presenta il DPF alle parti sociali e Banca Italia dice a maggio ancora record per il debito pubblico. Maxi sequestro di beni al clan dei Casalesi per un valore di 50 milioni di euro. Prima di parlare dell'ondata di caldo che sta colpendo un po' tutta Italia, torniamo in Afghanistan per parlare della notizia di apertura di questo GR, ossia, come sentivate anche nei titoli, l'uccisione di un militare italiano appunto in Afghanistan. Poco fa Micaela Nasca è riuscita a mettersi in contatto telefonicamente con il maggiore Marco Amoriello, che è il portavoce del contingente italiano ad Herat. Sentite cosa ha detto. Questa nostra pattuglia questa mattina è stata attaccata con un ordigno che era stato posizionato lungo la strada ed è esploso al passaggio del primo mezzo. Nell'esplosione sono rimasti feriti tre dei nostri paracautisti, mentre invece purtroppo uno è deceduto a seguito delle gravi ferite che aveva riportato. Si chiama Dilisio Alessandro, del 1984, di Campobasso. Sicuramente è stato un insorto, perché noi con questo termine di AIFAF, peraltro il termine che viene usato al momento, con questo termine di insorti si racchiude un po' tutto, quindi per cui sarebbe non corretto parlare di talebani, perché non è detto che siano stati talebani, come può essere stato un ribelle, un signore della guerra o un narcotrafficante e così via. Quindi in realtà qui c'è un po' di tutto, perché parliamo di insorti, quindi sicuramente non possiamo escludere nessuna ipotesi. I tre paracadutisti al momento sono ricoverati all'ospedale militare di Farah, che quindi al momento ci hanno rassicurato che nessuno dei tre dovrebbe essere, cioè risulta essere in pericolo di vita. E questo era il maggiore Marco Amoriello, portavoce del contingente italiano ad Herat. Passiamo ora a parlare dell'ondata di caldo che dovrebbe interessare un po' tutta Italia nelle prossime ore. Buongiorno a Paolo Corazzona, meteorologo del centro Epson. Sì, buongiorno a tutti. Allora, questo gran caldo è arrivato e che regioni sono interessate in particolar modo? Ma guardi, questa ondata di caldo in realtà interesserà un po' tutta l'Italia. Attualmente la regione in cui stiamo già registrando temperature ben oltre la media è la Sardegna, dove anche oggi abbiamo già toccato i 37 gradi. E probabilmente alla lunga sarà proprio la Sardegna la regione più colpita, con valori che tra domani e dopo potrebbero addirittura sfiorare i 39-40 gradi. Ma un po' tutta Italia, ripeto, è sotto la morsa del caldo. In questo momento ad esempio a Roma si registrano 32 gradi, anche in Toscana fa molto caldo, in Umbria valori ben oltre i 30 gradi in diverse località. Però il problema è, ripeto, interessa un po' da nord a sud. Tutta Italia quindi. Ecco, periodicamente anche noi giornalisti diciamo insomma ondata di caldo eccezionale, ma insomma il caldo così è abbastanza normale, ormai siamo a metà luglio, sì. Oppure effettivamente qualcosa di eccezionale? No, è che ormai piace sempre fare informazione anche urlata, quando invece molto spesso sono anche ondate di caldo previste in questo periodo dell'anno. Quello che semmai vale la pena sottolineare è che comunque da alcuni anni il clima nel Mediterraneo in Italia è cambiato, e quindi il famoso anticiclone delle Azzorre, che garantisce bel tempo e con temperature abbastanza sopportabili, da alcuni anni invece fa fatica ad allungarsi verso il Mediterraneo in Italia, e siamo sotto invece la spinta spesso di anticicloni nordafricani che con sempre maggior frequenza portano queste ondate di caldo. Quindi in tutto questo nulla di eccezionale, ma un altro segnale di un cambiamento a lungo termine. Esatto. Che sta. Altra cosa che ci dice spesso in queste giornate appunto di caldo, la temperatura reale per esempio di 32 gradi, ma quella percepita come se fossero 40 gradi. Esiste veramente questa differenza o anche qui è un'invenzione giornalistica? No, esiste, in qualche modo esiste, anche se non è meteorologicamente oggettiva l'informazione. Quello che si vuole dire è che in realtà per il nostro organismo non è importante solo il valore raggiunto dal termometro e quindi la temperatura in sé, ma anche il contributo dell'umidità. Insieme temperatura e umidità possono dare più o meno disagio, quindi si è creato questo indice, si chiama indice di calore in termine tecnico, lo chiamiamo spesso temperatura percepita, che tiene conto anche del contributo dell'umidità e dà una sensazione del caldo effettivamente percepito sulla nostra pelle. Corazzon, le chiedo una risposta sintetica e soprattutto sincera. Qualcuno dice: ci sarà un agosto torrido, poi in base a cosa lo si dica non lo so, insomma è possibile fare una previsione a così lungo termine, sì o no? È possibile, perché esistono previsioni anche stagionali, ma sono ancora in via sperimentale, quindi bisogna sempre prenderle con le dovute cautele. Per quanto ci riguarda, agosto non dovrebbe essere un mese così bollente come alcuni hanno già anticipato. A nostro parere sarà un bel mese, ma senza eccessi. Va bene, ci risentiremo allora ad agosto, magari sentiremo com'è andata. Grazie a Paolo Corazzona, meteorologo del centro Epson. Ora parliamo di una notizia che è stata data ieri dal Ministero dell'Istruzione e di oggi un po' su tutti i giornali, anche con titoli a caratteri cubitali, perché aumentano i bocciati sia alle superiori che alle medie. 12.000 studenti delle medie non sono stati ammessi all'anno successivo, mentre nel 2008 erano circa la metà. Per quanto riguarda le superiori, 15.000 studenti non hanno superato la maturità, sono 3.000 in più rispetto all'anno scorso. Anche il 5 in condotta quest'anno ha influito sulle bocciature, che nella maggior parte dei casi tuttavia sono dovute alle insufficienze nelle materie scientifiche. Ma allora quali sono le materie sulle quali gli studenti italiani sono meno preparati? Maria Chiara Grandis ne ha parlato con il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Giorgio Rambado. Secondo tutte le indagini recenti e meno recenti, nazionali e internazionali, sono quelle ad indirizzo scientifico e linguistico, quindi le lingue straniere, la matematica, le scienze, la fisica e così via. Comunque su 15.000 studenti bocciati alle superiori, 6.500 lo sono stati per l'insufficienza proprio nel voto di condotta. Allora è vero che sono indisciplinati i ragazzi italiani? È vero che lo sono sempre stati, probabilmente ora compare perché il voto di condotta ha avuto, al voto di condotta è stato attribuito un rilievo che fino a quest'anno non aveva o non aveva più avuto, cioè quello di precludere la possibilità della promozione con un livello di insufficienza nell'ambito della valutazione del comportamento. Gli studenti più bravi sono quelli nei licei, un picco di bocciati invece negli istituti professionali, il 23%. Questa fa parte della nostra tradizione per tante ragioni, prima di tutto perché c'è una selezione in entrata, una selezione da parte delle famiglie nei confronti della iscrizione ai licei, al liceo classico in modo particolare. È vero poi che nell'ambito della nostra tradizione culturale gli studi umanistici hanno sempre avuto, come dire, una importanza particolare e quindi mentre l'insegnamento delle materie professionali, professionalizzanti, tecniche, eccetera, è sempre stato visto con un maggiore distacco, un minore interesse. Giulia Crivelli, che per noi cura la rassegna stampa internazionale. Allora, spesso in Italia vediamo in giro questi negozi che vendono tutto a un euro, prima era tutto a 1.000 lire, e invece negli Stati Uniti che cos'è che vendono per un dollaro solo? È il titolo sulla prima pagina del dorso di finanza di Financial Times di oggi, che McGraw-Hill, questo colosso dei media che tra l'altro possiede anche l'agenzia di rating Standards and Poor's, potrebbe vendere il settimanale Business Week, che ha 80 anni ed è un'istituzione, per un dollaro di valore nominale. Purtroppo sono anni che questo settimanale non riesce, sappiamo la carta stampata è un po' in crisi dappertutto, non riesce a produrre bilanci inutile e quindi tanto vale venderlo e iscriverlo a bilancio con questo valore simbolico di un euro. Notizia tristissima per me, magari invece riusciranno alla fine a farselo a salvare, pagare un po' di più. Magari a salvare anche le persone che naturalmente ci lavorano, come dicevi giustamente tu, l'editoria è in crisi un po' in tutto il mondo e anche nel nostro paese. Cosa ci dice invece l'International Herald Tribune? Qui abbiamo invece un'altra gloria che del passato, che però ritorna, ed è Madame Vionnet, si chiamava Madeleine, ma tutti la chiamavano Madame Vionnet, era nata alla fine dell'Ottocento e poi è diventata una delle stiliste più famose degli anni 20, Roaring Twenties, a Parigi, poi a un certo punto si è ritirata, era avanti in tutti i sensi. Susie Mankets, la fashion editor dell'International Herald Tribune, dedica a una mostra che si è aperta a Parigi un lungo articolo a questa stilista molto innovativa, il cui marchio adesso è stato comprato da un imprenditore italiano, Matteo Marzotto, che vuole rilanciarlo, e quindi sicuramente una donna avanti sui tempi, che per esempio era anche dava alle sue impiegate dei benefit che forse neanche oggi ci sono, ci teneva, racconta Susie Mankets, che lavorassero con una luce bellissima, quindi proprio una donna che era avanti in tutti i sensi e che meraviglia, speriamo verrà riscoperta. Giulia, andiamo un attimo in Francia con Le Monde. Sì, qui un'altra attenzione invece all'Italia. La Francia, sappiamo, ha fatto una scelta nucleare da moltissimi anni, noi invece col referendum dell'87 il nucleare l'avevamo abbandonato. Fa notizia su Le Monde che invece, con il decreto che è stato approvato settimana scorsa, anche l'Italia ritornerà di fatto, perché poi noi compravamo energia spesso dalla Francia fatta con il nucleare, però adesso con i tempi tecnici torneremo anche noi ad avere le centrali nucleari. Grazie Giulia Crivelli, con te ci risentiremo naturalmente domani per la rassegna stampa internazionale. Le 13.48 GR Extra Large, andiamo ora in Somalia, dove oggi due francesi sono stati rapiti nella capitale Mogadiscio. Non sono due giornalisti francesi rapiti oggi a Mogadiscio, ma due consiglieri militari del governo somalo, ospiti di un capo militare locale che li aveva forniti di scorta. Ma proprio la scorta è improvvisamente sparita. Sembra che un comando di uomini armati sia entrato all'hotel Sahafi intorno alle 7 e abbia prelevato i due francesi direttamente dalla loro stanza. Sapevano quindi perfettamente dove andare. Come spesso accade, potrebbe essere stata la stessa scorta a organizzare il rapimento o comunque a fornire informazioni in cambio di denaro. Massimo Alberizzi, inviato del Corriere della Sera. Sono arrivati il 9 luglio e sono rimasti praticamente, rimanevano sempre in albergo a masticare, fra le altre cose, chat, che è l'erba anfetaminica che si usa in Somalia normalmente. Inizialmente il personale dell'albergo ha detto che si trattava di due giornalisti, ma Mogadiscio è ormai off limits per i reporter occidentali. Noi giornalisti andiamo ormai solamente con l'AMISOM, che sono le truppe di Uganda e Burundi che controllano il porto, l'aeroporto, Villa Somalia, insomma partecipano ai combattimenti anche se discretamente, nel senso che nessuno lo dice ma di fatto lo sono. Dollari che camminano, ormai soprannominate i bianchi, perché vengono indicati come persone per poter essere rapite e quindi a quel punto per chiedere un riscatto. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E dalla Somalia al Sudan, dove 13 donne sono state arrestate perché vestite in modo indecente, indossavano dei pantaloni mentre si trovavano in un ristorante. 10 di loro hanno ammesso la colpa e sono state punite con 10 frustate. Le altre 3 sono state rinviate a giudizio e fra loro c'è una famosa giornalista. Ce ne parla Adib Fateh Ali. Un clamoroso gesto di sfida al regime di Khartoum, Lubna al-Husseini, la giornalista sudanese che rischia 40 frustate per avere, assieme a altre 12 donne, indossato un paio di pantaloni, si è fatta intervistare dalla TV al-Arabia. Coperta in testa con un'enorme sciarpa, la nota giornalista ha detto: «È questo l'abito per cui mi hanno incriminato di atti osceni in luogo pubblico e io non lo toglierò fino alla data del mio processo», mostrando un cartoncino simile agli inviti di nozze che ha inviato a 500 persone, la battagliera donna ha detto: «Voglio che tutti vedano con i propri occhi la mia flagellazione». In realtà, anche se negli anni 90 è stata introdotta la severa legge islamica al Sharia, nel Sudan, a differenza di altri paesi islamici, è raro che una donna venga arrestata per non essersi coperta con il velo. È evidente che Lobna, giornalista di sinistra impegnata sul fronte dei diritti civili, è una donna non gradita al regime, ma non per il suo abbigliamento. E dalla giustizia, definiamola così, sudanese, a quella italiana, la seconda puntata del nostro viaggio sulle novità del processo civile che sono entrate in vigore il 4 luglio. Fra le novità, appunto, le sanzioni alle parti che puntano solo a perdere tempo e la possibilità anche di avere testimonianze in forma scritta, se richiesto da entrambe le parti. Ecco il giudizio sulla riforma da parte di Mario Barbuto, presidente del Tribunale di Torino, che è riuscito a dimezzare le cause civili pendenti e a contenerne i tempi entro 3 anni. L'ha intervistato Anna Marino. È un segnale, è un buon segnale, e non dobbiamo farci troppe illusioni. Non si risolve la crisi della giustizia, anzi più che di crisi della giustizia bisogna parlare di catastrofe della giustizia civile, è una catastrofe nazionale, 5.400.000 processi civili pendenti, più 3 milioni e rotti di processi penali, abbiamo un arretrato di 8 milioni che è un arretrato unico al mondo probabilmente. Questa legge qui non ci fa certamente uscire dalla catastrofe, non risolve la crisi, però un qualche rimedio positivo lo contiene e qualche buon segnale sicuramente lo contiene. Quali sono questi punti positivi? Dunque, un primo punto positivo è questo: si è sempre detto che uno dei motivi della lunghezza eccessiva dei processi civili, uno dei motivi è la presenza della molteplicità dei riti, dei tanti riti, della complessità dei riti. Qualcuno ha calcolato addirittura che nel nostro ordinamento esistono 20-25 riti diversi, quindi la complessità della procedura. Ebbene, questa legge qui introduce, attraverso una specie di innesto di 3 norme, introduce un rito che si chiama procedimento sommario. È un procedimento agile, efficace, è un po' ispirato al procedimento cautelare, ai provvedimenti d'urgenza, consente una definizione in pochi mesi di un processo contemporaneamente. Ne vengono aboliti 2 diritti: il rito societario, che è stata una pessima esperienza per la lunghezza, viene abolito subito, e viene abolito il cosiddetto rito del lavoro per gli incidenti stradali. Entro 2 anni noi dovremmo avere un solo rito fondamentale, che è questo procedimento sommario rapidissimo, e poi un altro rito ordinario un po' più complesso, ma insomma per il caso è più complesso. Abbiamo introdotto un rito snello finalmente, ecco. Ora la nostra marcia di avvicinamento ai mondiali di nuoto che si terranno a Roma a partire da venerdì. Se ne parlerà anche in A Tempo di Sport subito dopo XL. Roma 2009, mondiali di nuoto. Doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato per Tania. Un filo scarso, un filo scarso. scarso, però potrebbe bastare questo doppio mezzo rovesciato. E il cavallo di battaglia di Tania, più di una volta con questo tuffo ha fatto ottima gara da non parte è contento di... Giorgio, papà Giorgio, lo vedi, non hai tirato fino in fondo, non era proprio pulito come lo volevo. Un affare di famiglia. Lei, Tania Cagnotto, 25 anni, a fare acrobazie sul trampolino e a sognare una medaglia iridata a Roma 2009. Lui, papà Giorgio, a seguirla a bordo vasca nel difficile doppio ruolo di leggenda, insieme a Klaus Di Biasi dei tuffi italiani e ora di CT della nazionale. In coppia, una sul trampolino, l'altro a bordo vasca, proveranno a bissare in Montreal 2005 e Melbourne 2007, con Tania per due volte bronzo iridato nel trampolino da 3 metri. E negli europei di Torino dell'aprile scorso, Tania Cagnotto ha conquistato ben 3 ori. Impresa storica, ma l'azzurra sa bene che a Roma sarà tutt'altra storia. I mondiali sono un'altra cosa, qua in Europa siamo un altro pianeta praticamente, perché quelli forti forti sono fuori, sono i cinesi, i canadesi, gli australiani, quindi ce n'è ancora da lavorare. Di atlete forti nel resto del mondo ce ne sono ancora tante. Protagonisti annunciati sulla piattaforma Il Trampolino di Roma, i campioni cinesi. Una, Guo Jingjin, 4 ori olimpici e 8 mondiali, è tra le stelle più attese di Roma, come spiega Giorgio Cagnotto. È molto leggera, poi viene da una scuola cinese che insomma poi è molto sicura, diciamo che ci sono altre tuffatrici cinesi che più o meno le potrebbero assomigliare perché la tecnica è quella, ma soltanto che lei non sbaglia mai, lo vediamo anche la Wu Mingxia che è praticamente tecnicamente uguale, qualche volta persino meglio, ma qualche volta è più debole magari sotto l'aspetto psicologico e può sbagliare un pochino di più. Poi quello che hanno è che hanno migliaia e migliaia di tuffi in più rispetto a noi, di impiantistica, di ore a disposizione. Nota dolente per gli atleti azzurri, quella degli impianti. Pochi e con scarsa manutenzione quelli in Italia. Il problema si sa, noi siamo sempre in condizioni un po' disagiate negli allenamenti, perché voi dove ci sono anche gli impianti, comunque gli orari sono ridotti e quindi siamo ascoltati anche da pochi. C'è un dispiacere che talvolta non siamo ascoltati. Affari di famiglia, dicevamo, i tuffi italiani. E allora, oltre ai Cagnotto, occhio anche a Maria, Nicola e Tommaso Marconi. Ma allora, dall'altra famiglia, i Marconi, diciamo che speriamo da loro nel sincro, perché essendo anche fratelli, ma comunque da anni lavorano per questa specialità, sono bravi e sono anche così avvantaggiati in parte col fatto che sono fratelli, qualche cosa in più magari potrebbe saltare fuori. Il resto, poi, ci ricorda Giorgio Cagnotto, lo farà la magia della piscina di Roma. Al di là di come andranno i risultati, già è un grosso stimolo poter partecipare a Roma ai mondiali in una cornice sicuramente bellissima, perché Roma è, insomma, ha la fortuna di avere un contorno invidiabile a tutto il mondo, non per niente verranno tutti a gareggiare ma vengono a vedersi Roma. Saranno delle gare sicuramente emozionanti per tutti gli aspetti. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco, al coordinamento Daniele Biacchesi e in regia Peter Bescapè. Ci risentiamo domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.